Sembravano cose del passato, sembrava figlio di un tempo andato, sembrava un vecchio ferro arrugginito, sembrava un vestito liso e consumato. A quella notte non ho più pensato, anche a me stesso ho mentito, quel segreto che ho tradito mi ha riportato in quel piccolo mondo antico. Pensavo fosse tutto sepolto nel cassetto dei giocattoli rotti. Ho sentito profumo di tempi andati, le voci degli amici che son partiti, il rumore di macchine di benzina, il calore della notte fino a mattina. Tamburi e chitarre sconosciute suonavano per la vita e due bevute, e tutti quei ragazzi pieni di talento, convinti di essere solo un fallimento. Pensavo fosse tutto sepolto nel cassetto giocattoli rotti. A volte è insopportabile, altre volte va. A volte sento il sole, a volte nulla. Giocattoli rotti.